Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. L'Iran scrive una lettera ad El Baradei, esiste un secondo impianto nucleare. G20, accordo per limitare i bonus nella finanza. Il procuratore Gatto al processo dell'Utri, mangano ad Arcore per interessi diversi. Frodi fiscali, nei guai anche piloti e ciclisti. Buona giornata da Anna-Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Nuove tensioni internazionali dunque in primo piano in questa edizione. Arrivano dall'Iran che ammette abbiamo un altro impianto nucleare. Ad un giorno solo dallo stop imposto dal Consiglio di sicurezza dell'ONU sul nucleare, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha annunciato che l'Iran possiede un secondo impianto per l'arricchimento dell'uranio. Il direttore generale dell'agenzia, l'egiziano Mohammad El Baradei, ha fatto sapere di aver ricevuto una missiva ufficiale dalla Repubblica Islamica all'inizio di questa settimana. Al momento non è disponibile alcun dettaglio. Finora era noto che l'Iran avesse una fabbrica per l'arricchimento a Natanz, posto sotto la quotidiana sorveglianza degli ispettori dell'AIA. L'Iran sta subendo le sanzioni dell'ONU per essersi rifiutata di sospendere l'arricchimento e non avere fugato i sospetti che la sua attività nucleare sia destinata a creare armi atomiche e non a generare energia elettrica, come invece sostiene Teheran. Radif Tahali, GR24, Il Sole 24 Ore. E la notizia dell'Iran è rimbalzata a Pittsburgh, dove si concludono stasera i lavori del G20. Tra poco, alle 14, parlerà anche il presidente Obama. Noi ci colleghiamo allora in diretta con Pittsburgh, con Mario Platero. Buona giornata, Mario. Buona giornata. Direi sull'Iran ci sono già delle notizie ulteriori degli ultimi minuti. Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia hanno messo un comunicato di condanna dell'Iran in cui denunciano non soltanto quello che è stato scoperto dall'Agenzia Atomica Internazionale, ma anche il fatto che l'Iran sta perseguendo la costruzione di armi atomiche. Quindi c'è un risvolto politico che improvvisamente emerge qui a Pittsburgh a questo vertice del G20, vertice che peraltro ha già prodotto risultati storici. Ieri notte i 20 leader hanno deciso di trasformare il G20 in un organo, nell'organo primario direi, per la consultazione e il coordinamento delle questioni macroeconomiche internazionali. In un comunicato formale della Casa Bianca intitolato La nuova architettura per il XXI secolo e per il coordinamento economico, di fatto si dice che il G20 sostituirà il G8. Fra gli altri punti, coordinamenti macroeconomici per eliminare gli squilibri internazionali, più domanda interna per la Cina e meno esportazioni, per intenderci, un'apertura maggiore per Fondo Monetario e Banca Mondiale, un ruolo importante nella sorveglianza per il Financial Stability Forum guidato da Mario Draghi. Ecco, proprio Mario Draghi è stato protagonista di una indiscrezione del Wall Street Journal, una notizia che in realtà il Sole 24 Ore aveva già anticipato da tempo. E cioè Draghi potrebbe essere la nuova guida della Banca Centrale Europea in sostituzione del francese Trichet. Lo ripetiamo, è una notizia che pubblica oggi il Wall Street Journal, ma una notizia che era stata già anticipata dal Sole 24 Ore in Italia. E noi proprio in Italia torniamo parlando dei fatti italiani. Oggi il capo dello Stato Giorgio Napolitano ha incontrato gli eurodeputati italiani, ai quali ha rivolto un monito severo. Ci racconta tutto in diretta Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Il presidente della Repubblica Napolitano è stato chiaro nel suo messaggio ed ha spiegato che l'Assemblea di Strasburgo non può essere la cassa di risonanza delle polemiche della politica interna o istanza di appello rispetto a decisioni o comportamenti dei parlamenti e dei governi nazionali. Ci sono sedi appropriate, ha spiegato Napolitano, in cui possono essere contestate le violazioni, dalla Corte di Giustizia del Lussemburgo alla Corte di Strasburgo fino al Consiglio europeo. Poi l'invito del Capo dello Stato agli europarlamentari a dare prova di assiduità e competenza nel loro impegno continentale. Bisogna credere e spendersi per la causa dell'integrazione europea, ciascuno con il massimo di convinzione e dedizione. Nel Parlamento europeo, ha aggiunto Napolitano, vale la pena di impegnarsi fino in fondo e non pensando ad altri obiettivi. Le preoccupazioni dichiarazioni infine del capo dello Stato rispetto al processo di integrazione europea permangono, così come sono presenti timori circa il tema dell'immigrazione, tema rispetto al quale Napolitano evidenzia limiti in materia di diritto di asilo. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, noi ci spostiamo a Palermo alla requisitoria del procuratore Gatto al processo al senatore Marcello Dell'Utri. Raffaella Calandra in diretta, Raffaella. Possibile che in Brianza non ci fossero persone capaci di occuparsi della tenuta di Arcore? Formula una domanda retorica il procuratore generale di Palermo, Antonino Gatto, prima di arrivare a quella che per l'accusa è la risposta a questo quesito. Vittorio Mangano, sentenzia il PG, fu assunto nella villa di Arcore di Silvio Berlusconi per coltivare interessi diversi da quelli per i quali fu ufficialmente chiamato da Palermo fino in Brianza. All'inizio della sua requisitoria al processo d'appello a carico del senatore Marcello Dell'Utri, tra i fondatori di Forza Italia, il procuratore generale va subito al ruolo centrale del cosiddetto stalliere di Arcore, Mangano appunto, condannato all'ergastolo per un duplice omicidio di mafia e morto nel 2000 in carcere. Non solo Mangano di cavalli e coltivazioni non sapeva nulla, ma, prosegue Gatto, se guardiamo i suoi numerosissimi precedenti penali, gli interessi che coltivava erano di tutt'altra natura. Le parole del PG piombano nella discussione e nelle polemiche delle ultime settimane per la riapertura di alcune inchieste sulla stagione delle stragi di mafia. Non c'è a Palermo il senatore Dell'Utri ad ascoltare la requisitoria che dovrebbe terminare il 16 ottobre con le richieste di condanna dell'accusa, mentre la sentenza è attesa prima di Natale. In primo grado Dell'Utri era stato condannato a 9 anni per concorso in associazione mafiosa ed è tutto. Grazie a Raffaella Calandra. La riforma Brunetta adesso sembra siano state abrogate con un decreto del 1 luglio alcune delle disposizioni annunciate dal ministro. Erano fra i capisaldi della crociata contro gli statali fannulloni voluta dal ministro Brunetta. Il decreto anticrisi approvato a luglio avrebbe però di fatto cancellato alcune delle severe misure varate per migliorare l'efficienza del pubblico impiego, come l'indennità di malattia ridotta e la fascia di reperibilità estesa praticamente a tutta la giornata per i dipendenti malati. A dar conto della notizia, il sito internet di Repubblica, Brunetta, interpellato in proposito stamattina, ha risposto così. Lei legge troppo Repubblica. Secondo Repubblica, le fasce orarie di reperibilità ora sono tornate ad essere 2 di 2 ore ciascuna, la certificazione medica è stata nuovamente affidata al medico convenzionato e sono state abrogate alcune delle norme che prevedevano penalizzazioni economiche. Una restaurazione dovuta, commentano i sindacati, secondo cui ora il settore pubblico è stato di nuovo uniformato a quello privato, cancellando una palese ingiustizia. Il Ministero della Funzione Pubblica invece conferma soltanto i cambiamenti delle fasce di reperibilità, ma assicura che non ci sarà nessun passo indietro nella lotta ai fannulloni. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Noi ci spostiamo ancora all'estero, per la precisione in Afghanistan. Diario afgano. Base militare di Herat, ore 5.30 del mattino, facciamo un briefing premissione per l'airdrop che dobbiamo fare, cioè dobbiamo lanciare viveri e acqua da un C-27J Spartan dell'aeronautica militare per la prima volta all'esercito afghano, esercito che si trova a presidiare il castello di Murichak in una zona vicina alla base militare di Balamurghab, dove stanno gli italiani, vicino al confine con il Turkmenistan. Tenente Nicola Perandini, è andato tutto bene? È andato tutto bene, anche se è il primo lancio che facciamo, come dicevo prima, senza il supporto delle truppe al suolo, quindi il carico comunque, dato il check, visto il check anche con l'ausilio del Predator, sembra sia entrato in zona. Adesso ci coordineremo per rivedere il filmato e avere lo score del lancio. Cioè, bisogna essere sicuri che tutto quanto abbiamo lanciato è arrivato a destinazione. Confermo. Il lancio è avvenuto nei pressi del castello di Murichak, si è aperto il portellone dell'aereo e il carico è stato lanciato. Ed è tutto da Cristina Balotelli, che vi parla da Herat. E da Roma oggi conferenza stampa dedicata proprio alla sicurezza delle nostre truppe in Afghanistan. I mezzi a disposizione delle nostre forze armate in Afghanistan non sono adeguati al contesto in cui vengono utilizzati. A dichiararlo è Maurizio Turco, il deputato radicale e cofondatore del Partito dei Militari. Questa mattina ha presentato un dossier sugli armamenti a disposizione dei soldati, ponendo l'accento su alcuni sistemi motorizzati che avrebbero potuto aumentare il livello di sicurezza dei militari. Noi vogliamo sapere perché sono stati acquistati dei sistemi motorizzati che avrebbero già salvato delle vite umane e perché sinora non sono stati utilizzati. Il riferimento è alla torretta Hoverhead, un mitragliatore posto sul tetto della vettura che andrebbe a sostituire il militare sulla ralla. Secondo il dossier, la torretta sarebbe in dotazione dello Stato dal 2002. In più, ad inizio agosto ne sarebbero state acquistate altre 81 unità, ma nonostante ciò non sarebbero mai state inviate in Afghanistan. Savino Gallo, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Prima della viabilità vi segnaliamo un appuntamento promosso dalla Commissione europea per il quinto anno consecutivo. Se nell'immaginario collettivo lo scienziato viene spesso associato ad una figura lontana dalla realtà, ci penserà la notte dei ricercatori a smentire il luogo comune. Il 25 settembre in 40 città europee e 7 italiane, fra cui Milano, Roma, Trieste e Napoli, scienziati e ricercatori saranno al servizio dei cittadini e spiegheranno, fra una partita di ping pong e una di calcetto, cosa succede nei loro laboratori. Uno di loro è Roberto Scandolo, ricercatore presso il Centro Internazionale di Fisica Teorica. C'è questa percezione dello scienziato che, per esempio, lo scienziato che vive nella sua torre d'avorio, nel suo laboratorio, che non comunica con la gente. Questa la vogliamo un po', questo, lo scopo di questa iniziativa è proprio quello di rompere questo pregiudizio. Trieste, città abituata agli scienziati, per la prima volta partecipa al progetto promosso dalla Commissione europea. Ci sarà anche Paola Dal Negro, ricercatrice presso l'Osservatorio Geofisico Sperimentale. Io sarò presente a bordo del Delfino Verde, parlerò ai cittadini che vorranno partecipare a questa iniziativa, cercando di far capire qual è la vita all'interno dell'acqua di mare, quanti sono gli organismi presenti, soprattutto quelli di piccole dimensioni. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:16, ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato dell'Iran, che ha scritto una lettera ad El Baradei. Esiste un secondo impianto nucleare, questa la missione, era una voce che circolava da tempo, ma oggi è arrivata la conferma. Poi siamo andati a Pittsburgh alla G20, che stasera conclude i lavori. È stato intanto raggiunto un accordo per limitare i bonus nella finanza. E poi siamo andati a Palermo per la requisitoria del procuratore Gatto al processo dell'Utri. Mangano in casa di Berlusconi, ha detto Gatto, per gli interessi dei boss. Adesso parliamo, come anticipato anche nei nostri titoli, invece di frodi fiscali. Quasi 500 milioni di euro di capitali detenuti all'estero illegalmente. Questo è il frutto di una maxi operazione della Guardia di Finanza che ha coinvolto anche campioni dello sport. Il pilota di Formula 1 Vittorio Liuzzi, il campione di ciclismo Davide Rebellin, ma anche imprenditori, un copilota di rally e probabilmente personaggi del mondo dello spettacolo sarebbero coinvolti nell'inchiesta della Guardia di Finanza sui capitali e i beni detenuti all'estero, come ci conferma il capitano delle Fiamme Gialle Gianluca Berruti. Sicuramente non è escluso che in futuro ci possano essere anche altri personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport coinvolti. L'inchiesta della Guardia di Finanza sui capitali e beni detenuti all'estero sta arrivando dunque come un ciclone su chi nel corso degli ultimi anni ha scelto la strategia del trasferimento di residenze e capitali per non pagare le tasse. Liuzzi dal 2006 al 2008 avrebbe trasferito la propria residenza dall'Abruzzo prima in Inghilterra, poi in Svizzera, continuando a comprare barche e case in Italia. Il valore di beni e capitali all'estero scovati dalle Fiamme Gialle ammonterebbe già a 1,8 milioni di euro. Il ciclista Rebellin ha trasferito la residenza nel Principato di Monaco, ma si allena in Italia. Se verrà accertata l'evasione, non potranno avvalersi dello scudo fiscale, come ci ha spiegato il capitano delle Fiamme Gialle Gianluca Berruti. Coloro i quali sono oggetto di investigazione o di indagine non possono avvalersi di questa possibilità e pertanto tutti coloro nei confronti dei quali è stato intrapreso questo percorso allo stato attuale non se ne potranno avvalere. La parte penale, che deve essere approfondita e che può riguardare eventuali casi di riciclaggio, e la parte amministrativa con le sanzioni che prevedono appunto la possibilità eventuale della confisca a pretesa dell'erario di quello che è stato in qualche modo oggetto di questa esportazione. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Rebellin non è nuovo ad incidenti, per così dire, di percorso. Ci racconta tutto in diretta allora Dario Ceccarelli. Dario, è vero? Sì, è vero. Buongiorno Anarita. Sì, Davide Rebellin non è nuovo a questi incidenti, perché intanto va ricordato che è uno dei nomi più noti del ciclismo italiano, perché ha una certa età, 38 anni, per cui è riuscito a vincere corse di un certo prestigio come l'Amstel Gold Race, la Freccia Vallone, Liegi-Bastogne-Liegi, e soprattutto è ricordato perché l'anno scorso alle Olimpiadi di Pechino ha vinto una medaglia d'argento. Il problema è che, diciamo, lui, pur avendo questa faccia da bravo ragazzo, è chiamato il chierichetto, perché è così, pare in odore poco appropriato, in odore molto religioso, in odore di santità, è nato a San Bonifacio di Verona. Ecco, però ogni tanto prende delle scappatorie. Una è stata per il doping, lui è risultato positivo agli ulteriori accertamenti fatti dal CIO per l'uso di EPO. Lui praticamente avrebbe preso la cera, che è l'EPO di terza generazione, e questo, dopo tutti gli altri casi che c'erano stati di doping nel ciclismo, è stata una specie di goccia che ha fatto traboccare il vaso. E poi c'è da segnalare questa faccenda qui che lui ha la cittadinanza nel Principato di Monaco, però insomma praticamente viveva in Veneto, perché lo vedevano tutti, lui partecipava a tutte le gare, anche le più piccole, per cui era inevitabilmente una figura che tutti vedevano lì al bar, le cose, eccetera. E penso che la Guardia di Finanza abbia fatto 2 più 2 uguale 4, e alla fine in passato prese anche la cittadinanza argentina, ma questo lo fece per riuscire a inserirsi nello stesso nei mondiali, perché la nazionale azzurra l'aveva escluso, ma quindi qui non c'entravano accertamenti fiscali. Dario, prima di salutarti e ringraziarti, però volevo chiederti una cosa. Oggi si chiamano Rebellin, Liuzzi, però in passato anche altri grandi campioni dello sport sono stati coinvolti in maxi operazioni di questo tipo. Ma perché tutti i campioni dello sport? Valentino Rossi, Tomba, Cipollini, sono tutti nomi che risuonano, fanno titolo, come diciamo Maradona. Maradona, che fanno titolo, come diciamo noi giornalisti. E quindi a un certo punto, in queste grandi inchieste, anche gli investigatori, insomma, preferiscono fare il botto, no? E il botto si sente di più, per cui non disdegnano di andare a cercare cosa fanno i grandi sportivi, perché sanno che poi dopo l'attenzione dell'opinione pubblica, comunque in generale degli inquirenti, eccetera, si alza ancora di più, e quindi ottengono maggiormente il loro scopo. Grazie a Dario Ceccarelli. Noi proseguiamo con la pagina di cronaca per parlare di maltempo, disagi forti, in particolare in Calabria. Piogge e vento che stanno imperversando da alcuni giorni in Calabria, con particolare intensità nella zona ionica, stanno creando nelle ultime ore problemi alla circolazione stradale, ma anche nella zona montana, soprattutto per la Spromonte Regino, ci sono problemi. Una persona risulta dispersa a causa del maltempo proprio nella zona della Limina, nella zona della Spromonte della Locride. Non si hanno più notizie la serata di ieri di un uomo del quale non si conoscono le generalità. Su tutte le altre zone della Ionica, ricerca dei vigili del fuoco e del distaccamento di Reggio Calabria, ma anche di quelli di Catanzaro e Crotone. Soprattutto in quest'ultima città, i problemi alla circolazione stradale hanno indotto il sindaco alla chiusura delle scuole. Filippo Veltri, GR24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro. Ci spostiamo al nord per parlare del Carroccio adesso, con la seconda puntata del nostro reportage in alcune città a forte vocazione leghista. Oggi ci soffermiamo sul dialetto. Gli Stich Neuf dell'Imperador e l'altra è Ossunador de Sifoi de Amelin. C'erano una volta i vestiti nuovi dell'imperatore e il pifferaio magico. Oggi c'è questa versione in bergamasco, almeno per i bimbi di Cenate. Benvenuti nella scuola dove i libri sono bilingui e gli alunni, oltre al dettato in italiano, fanno i cruciverba nell'idioma dei loro nonni, a seconda del livello, del basello, ovviamente. Dopo la sperimentazione dell'anno scorso, sale in cattedra di nuovo e con il doppio delle ore Giancarlo Giovazzi, l'ingegnere, con la missione di dare dignità letteraria al suo dialetto. Io uso bergamasco sempre quando scrivo in rete, e come ingegnere faccio le fatture, faccio anche delle relazioni in bergamasco. Un ingegnere ha anche pagato l'assegno in bergamasco, e io ho fatto anche delle relazioni di calcolo, sempre bilingue. Buonasera a tutti. L'ha ripartito il Consiglio regionale. Nei fortini della Lega il logo delle origini è anche in TV, in un TG locale, nella messa di Pentecoste, come nel centralino a Como dell'assessore all'ambiente, mentre sono state bloccate perché nulle le nozze non in italiano. Se le campagne contro l'inno nazionale e la secessione spaccano anche le città dominio del Carroccio, il dialetto infervora gli animi soprattutto dei più anziani, mentre restano perplessi all'uscita dalle scuole tra Brescia e Bergamo gli studenti. Io sono di Provaglio Liceo, parlo un dialetto là. Buba. Lei pensa che è giusto che nelle scuole introducano dei corsi in cui si parli in dialetto locale? E da oltre si capisce per me, per me sì. Al paese parla ancora dialetto. Sì, ne abbiamo parlato. No, più che altro creerebbe casino all'interno della scuola. Per il dialetto si impara a casa, cioè io un po' lo so perché ci sono i miei nonni che lo parlano, però a scuola secondo me, cioè non è più come una volta, insomma. Parli un po' il dialetto bergamasco? Sì, anche con i miei parenti. E lo usate anche nella comunicazione normale tra di voi? Sì, sì, quello sì. Prova a dirmi qualcosa in dialetto? Somat. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore, Bergamo. Ieri la sentenza del TAR di Lecce che ha rilanciato il tema delle quote rosa in politica. I giudici hanno accolto un ricorso contro la provincia di Taranto, colpevoli di aver formato una giunta tutta al maschile. Siete d'accordo con questa decisione? Vi abbiamo chiesto nel nostro sondaggio. Sentiamo come avete risposto. La decisione del TAR pugliese di annullare la giunta provinciale di Taranto perché formata da soli uomini ha diviso i nostri ascoltatori. Il 58% di chi ha votato al nostro sondaggio giudica la decisione del tribunale sbagliata. Però la questione della rappresentanza femminile nella politica è una cosa seria, ma la proposta delle quote rosa che di tanto in tanto ritorna fatica a fare breccia. Per il sottosegretario Giovanardi, che da sempre è contrario alle quote, la questione di Taranto va addirittura ribaltate e i discriminati ora rischiano di diventare gli uomini. Mentre si parla in teoria di rispettare i diritti di tutti, lì ci sarà un signore che verrà buttato fuori dalla giunta in quanto uomo, perché un signore che ha un nome e un cognome solo perché di un determinato sesso, in questo caso uomo, perde il suo incarico e il suo partito che aveva indicato lui perde il diritto di indicare una persona di fiducia per mettere una donna chiunque. Bianco o Nero torna lunedì mattina alle 8.30. Per votare basta andare su radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di cinema adesso. C'è la conferenza stampa in corso a Roma per la presentazione del Festival 2009. Allora ci colleghiamo in diretta con Chiara Di Michele. Sì, buongiorno. Tutto il cinema per tutti è l'identità che il presidente Gianluigi Rondi ha voluto dare alla quarta edizione del Festival di Roma. Questa mattina è stato presentato il programma, ci saranno grandi nomi internazionali, dall'ultimo film dei fratelli Coen a Giulia e Giulia con Meryl Streep, a lei verrà assegnato il Marco Aurelio d'Oro alla carriera. Parteciperanno al festival anche George Clooney, Richard Gere e Colin Farrell. Per quanto riguarda i film italiani, sono 19, di cui 5 nella selezione ufficiale. Viola di Mare, L'uomo che verrà e Alza la testa sono i 3 in concorso, ma il festival ha trovato spazio anche per Olmi e Scorsese nella sezione L'altro cinema extra, che inoltre metterà in scena il duetto Muccino Tornatore. Gabriele Muccino farà anche parte della giuria internazionale, composta non più dai critici, ma da personalità del mondo del cinema e delle arti. Tra gli eventi, infine, attesissima l'anteprima di 20 minuti di New Moon, secondo episodio di Twilight. Da Roma è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Di Michele e noi concludiamo con la pagina sportiva partendo dal calcio. Ieri il posticipo della quinta giornata di Serie A, il pareggio 2-2 tra Genoa e Juventus che ha sancito l'accoppiamento tra nerazzurri e bianconeri in vetta al campionato. I campioni d'Italia hanno 13 punti come la Juve e domani tornano in campo alle 18 per l'anticipo della sesta giornata a Marassi contro la Sampdoria di Cassano, ora ad un passo dal vertice con 12 punti. In serata Livorno-Fiorentina. E poi c'è la Formula 1, grande protagonista delle cronache in queste settimane per il caso Renault. Domenica si torna sul luogo del delitto a Singapore, dove si verificò l'incidente provocato da Piquet che è costato la radiazione a Briatore. I pronostici della vigilia dicono che Hamilton è favorito, prove libere al via tra circa mezz'ora. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio a Buongiorno America, il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.